piatti di pesce. Qualità e stagione dei pesci. Tra i pesci comuni, i più fini sono lo storione, il dentice, l'ombrina, il ragno, la sogliola, il rombo, il pesce San Pietro, l'orata, la triglia di scoglio, la trota d'acqua dolce, ottimi tutto l'anno, ma la sogliola e il rombo specialmente d'inverno. Le stagioni per gli altri pesci più conosciuti sono per il nasello, l'anguilla e i totani tutto l'anno, ma l'anguilla è più adatta all'inverno e i totani sono migliori l'estate. Per il muggine grosso di mare, il luglio e l'agosto. Per il muggine piccolo, cefalo, l'ottobre e il novembre, ed anche tutto l'inverno. Per i ghiozzi, fritture e seppie, il marzo, l'aprile e il maggio. Per i polpi, l'ottobre. Per le sarde e le acciughe, tutto l'inverno fino all'aprile. Per le triglie, barboni, il settembre e l'ottobre. Per il tonno, dal marzo all'ottobre. Per lo sgombro, la primavera, specialmente il maggio. Questo pesce, per la sua carne dura e tigliosa, si usa a cuocerlo in umido. Volendolo fare in gratella, sarà bene metterlo al fuoco sopra un foglio grosso di carta unto e condito con olio, sale, pepe e qualche foglia di ramerino. Tra i crostacei, uno dei più stimati è la rigusta o aragosta, buona tutto l'anno, ma meglio in primavera, e tra le conchiglie l'ostrica, la quale nei luoghi di ostricoltura si raccoglie dall'ottobre all'aprile. Il pesce, se è fresco, all'occhio vivace e lucido, lo ha pallido ed appannato se non è fresco. Un altro indizio della sua freschezza è il colore rosso delle branchie, ma queste, potendo essere state colorite ad arte col sangue, toccatele con un dito e portatevelo al naso, l'odore vi farà la spia. Un altro carattere del pesce fresco è la sodezza delle carni, perché se sta molto nel ghiaccio diventa frollo e morbido al tatto. I marinai dicono che i crostacei e i ricci di mare sono più pieni pescati durante il chiaro di luna.